Una curiosità per Gianni, per Giulio, come eravate messi voi? A vitamine? Io a vitamine? Io sto usando il Supertrack 360 FM, il microfono è sempre quello, ho l'MB più 4, che è quello che più si addice alla mia voce. Ciao Claudio, sono Spaghiero, intendo, non l'altro Claudio, perché l'altro probabilmente ha fatto già QRT, no, sto ascoltando. No, cosa vuoi che dica? Ma eravamo tutti quanti con lo stesso segnale, tutti 8-9, ma tutta la serata così, e in tutti i posti dove siamo arrivati, sempre tutti quanti 8-9, sia Roberto, Gianni, io, tutti quanti così, per cui io Marco, non, forse la propagazione che aveva stabilizzato i vari segnali. Sì, infatti ho notato quello, che i segnali si somigliavano molto, dai. Va bene. Stavo per preparare pentolame, roba del genere, dai. Che ora è? 6 meno 20, dai. Incomincio, dai. Riprendete, non so chi ci sia rimasto però, perché Chiodo ha chiuso. Tino mi pare abbia chiuso. Chi altri c'era? Roberto ha chiuso. Vediamo un po'. Posso? Certo, avanti Luca. A Claudio volevo dire, comunque, i segnali sono aumentati, soprattutto il suo qua, ma non è mai arrivato così forte. Claudio, mi senti? Sì, Luca, che ti sento, ciao, buonasera. 9:20 sei, non sei mai arrivato così. Forse lo spostamento dell'antenna è più favorevole a te adesso, capito? Anche tu sei 9, è pieno, prima di 7, quindi... Va bene, dai, continuate, non mi va di fare collegamenti, di fare niente. Poi Giulio, ti ripeto, quella portante è da 40 anni che esiste ed è sempre la stessa persona. Ok, quindi non ti preoccupare, che quando io dico le cose non mi sbaglio, e non mi posso mai sbagliare con un lavoro che ho fatto, e mi hai capito. Buon proseguo a tutti, dai, ci sentiamo quando capita, ciao ciao. Ok, ciao cara. Sì, no, ma io ho notato una cosa, intanto il segnale tuo qualcosina è aumentato ancora, perché adesso sei proprio quasi sul 9:20, diciamo che ci può mancare cosa 9:19, avanti, diciamo così, però prima eri 18, adesso sei quasi 20. Stavo dicendo, sì, no, ma io ho considerato, perché tu lo sai, dopo tantissimi anni di frequenza, se permetti una piccola valutazione me la faccio, no? Perché io ho stabilito due segnali e sono quelli, non si fugge, e per quello appunto non so se ti hai ascoltato, ho detto che quello che tu hai immaginato io lo confermo e penso che sia proprio così. Naturalmente i numeri non se ne fanno perché non è giusto farli, però la situazione è quella, io ne sono convinto, oltre al fatto che la prova che hai fatto tu eccetera, ma me ne sono convinto anch'io vedendo i vari segnali, i due segnali insomma, ecco. Va bene, pazienza, lasciamolo fare. Avanti Gianni. Cara gara, dai, vabbè, non ne parliamo, c'è un ritornato rapido. O giù. Sì, avanti, aspetta un attimo, no, perché stavo ascoltando qualcuno che stava chiamando, Avanti, ti chiama la Sardegna? Non c'è più, dai, non lo sento più, pazienza. Sì, già, non, ma poi ho messo anche in preventivo anche il segnale che arriva da te, Gianni, ho messo in preventivo anche quello, dunque, tirando le somme, e sicuramente anch'io sono convinto che Claudio ha ragione. Va bene, comunque, lasciamo prendere a tutti i mulini. Intanto dava fastidio qualche volta solo a qualcuno che arrivava da fuori, ma a Sassari non ci fa un baffo. Va bene, dai. Avanti Marco. Avanti Catanzaro, se ascolti l'isola sarda, cambio. Attento Catanzaro, se ascolti Sassari, Sardegna, avanti. Grazie a te per aver chiamato, sì, ti ascolto. Un po' bassino perché la propagazione non è delle migliori, però ti ascolto bene. Ti mando avanti anche un altro amico qua, che è sempre della città di Sassari, si chiama Gianni Doppio Room. Avanti Gianni per l'amico di Catanzaro. Ehi a Catanzaro, dai, sono il primo che ti ha ascoltato, anche se arrivi un po' bassino, ti saluto cordialmente, la stazione Gianni Doppio Room della città di Sassari. Avanti Catanzaro, di nuovo mi dirà il tuo QRZ. Thank you. questo è 9.30 la forzata. Attento Catanzaro, hai sentito il doppio rum? È sempre lui Gianni, è Santiago 7 qua, è sempre lui con l'ignale attaccato. Sì, infatti è sempre il segnale è sempre quello. Sì, attento l'amico di Catanzaro, sì, ripeto, io ti ho ascoltato, ma sei molto basso, la preparazione non ci sta aiutando in maniera sincera, devo dire, per così dire, per cui ci abbiamo ascoltato, se tu hai chiesto il segnale per te dalla mia stazione era Santiago 5, la radio potevo darti 3, però ti sentivo, ma purtroppo qui avvengono momenti difficili a causa della portante, c'è sempre qualche imbecille che fa i dismetti stupidi e, nonostante l'età che ha, vabbè comunque pazienza. Avanti ancora a Catanzaro, si è ascoltato Giulio da Sassari. Certo, Cosenza, che ti ascoltiamo, forte e chiaro, vai. Non so come mi ascolti tu, ma qua ti ascoltiamo, avanti. Che casino, si sta abbassando giù. Sì, infatti la propagazione è ormai scesa, non è più come prima era bellissima, adesso è troppo bassa. Infatti questo amico di Cosenza io non lo capisco quello che dice perché è troppo basso. Vabbè, pazienza, Attento un amico di Catanzaro, io ti saluto e suppongo che ti voglia salutare anche Gianni qui da Sassari, in quanto la propagazione non è buona, per cui il segnale è bassissimo e la radio è molto difficoltosa ad ascoltarla, per cui io ti saluto e grazie per il contatto radio, alle prossime, sperando di incontrarci di nuovo in frequenza con una giornata di propagazione migliore. Ok, io ti rimetto il microfono, amico di Cosenza, di Catanzaro volevo dire, per vedere se mi hai ascoltato in quest'ultimo passaggio. Grazie, ad ogni modo ci stai ascoltando. Avanti Catanzaro. Che stronzo, guarda. Che cosa ci vuoi fare, pazienza. Vabbè, dai, apprendiamoci. Vai Marco. Boh. Vabbè, niente, non. Dai, tanto sono in cucina, sto ascoltando, però vedo che questa situazione non si risolve. Boh. Questo è arrivato solo di radio, dai, Santiago proprio non si muove. Ti salutiamo amico, perché io proprio non ti sento, dai. Ci sentiamo in migliori condizioni. Buona serata, arrivederci. Giulio. Sì Gianni, sì, io lo stavo ascoltando poc'anzi, l'ultimo passaggio che ha fatto l'ho ascoltato. Attento l'amico di Catanzaro, io ripeto, ti saluto di nuovo, l'avevo fatto già in precedenza, ma purtroppo la modulazione era troppo bassa, però nell'ultimo passaggio che hai fatto ti ho ascoltato, ti ho ascoltato in tempo Gianni, giusto per dire che arrivavo più forte. Vabbè dai, no, non è un problema, la preparazione già oggi non è, adesso a quest'ora non è buona, ma stamattina, stasera presto già era abbastanza bella, ottima veramente. Avanti Marco. Io stavo riposando. Sì, qua arrivava l'amico di Cosenza o di dov'era, era stabile a 5, però a poca radio, a poca modulazione, modulazione 2, non si fa difficoltà a capirlo, fosse stato più alto il segnale avrebbe compensato, diciamo, dai. Qua invece era al contrario, il segnale era proprio, non si muoveva, e vabbè che questo qui è riminzo, questo apparecchio, che gli potessi dare 2, dai, il segnale, perché non si muoveva nemmeno, e di solito sono 2 segnali in più che devi dare di quello che arriva, ma la radio la sentivo. Sai cos'è? Sono a filo di volume qua, sempre per non disturbare mamma che guarda la TV. Se no voglia alzarne, io ho voglia. Ah, quindi non è colpa sua, se tu alzi il volume lo senti, dai. Sì, sì, un po', però non è comunque una radio eccezionale, è una radio, forse come mi sentono loro col mic normale, lo sento io, capito? Ma tu col mic normale ci bene, l'unica cosa del superstar è che il mic normale c'ha il filo duro, vorrebbe cambiare il filo perché non fa tirare, capito? È troppo duro come filo. Guarda Gianni che ti ho mandato un vocale, ascoltatelo bene. Ciao Marco, ciao a tutti. tutti, comunque rimango in ascolto. Ciao di nuovo Claudio. Sì, ma scusa Gianni, tu cos'hai? Il microfono marcato star? Kappa. Sì, è molto rigido, troppo rigido. Pensa che in macchina faticavo a usarlo. Allora mettevo il Lafayette DMC507, che oltre che uscire bene ha un cavo morbidissimo, bello morbido. Giulio, ci sei ancora? Sì, che ci sono, certo, sì, beh, vabbè, quando il cavo è morbido va meglio, certo. Va meglio Gianni, faccio la palunghetta già, cosa dove ti dica? O sostituisci il cavo, ma se è troppo duro potresti buttare giù chissà cosa, speriamo di no, che non ti succeda mai, però se il cavo è duro è un po' difficoltoso, va bene, dai, comunque già, io non lo so, adesso sto pensando se spostare l'antenna e metterla nel punto più alto della casa o se lasciarla lì, quasi quasi la lascio lì, così per ogni evenienza ce l'ho a portata di mano nel terrazzo, arrivo lì e faccio un salto e sono già arrivato senza bisogno di salire sul tetto. Mi sembra che non ne vale la pena, visto considerato che riesco ad arrivare un po' dappertutto, per cui non me ne frega niente, poi se arrivo un pochino più basso non ha importanza, è interessante che mi sentano sempre. Non so cosa fare, veramente, comunque, ci penserò in questi giorni, dai, se la sposto o meno, ma non lo so, al momento dico la lascio dov'è. Va bene, vai Gianni. Vedi tu Giulio come ti viene meglio, però se la metti sul tetto aumenta come prestazioni. Vabbè che quella lì è un'antenna che è un dipolo e quindi anche se la metti in terra poppa lo stesso. Poi quelle antenne lì vanno bene anche se tu le metti appoggiate sul muro. Non lo so già, non lo so, di solito il dipolo bisogna che sia già ad una certa altezza dal suolo, da tutto il piano così chiamato riflettente, che poi non ha bisogno questa di piano riflettente, però sai com'è, l'altezza è sempre importante, ma ad ogni modo questo è considerato che mi soddisfa abbastanza così, vediamo un po', anche perché qui in questa posizione tranquillo, non disturba, insomma è ultima, dai, e soprattutto mi viene bene, mi viene bene per lavorarci, però vi voglio togliere una piccola curiosità, che è una curiosità praticamente inutile, però voglio fare questa prova, misurare l'estrazionale direttamente sull'antenna, non mettendo il rosmetro dopo la radio, no, direttamente sull'antenna. Voglio provare così per vedere che cosa succede e fare un po' la comparazione con il segnale poi con il rosmetro dietro alla radio e quello dopo su tutta l'antenna. Mi si è considerato che c'è un terrazzo, mi viene bene fare una prova del genere. Tu mi dirai a cosa serve? Non lo so, vedrò, tutto lì ho già. Dai Marco. Venga. Sono un po' così, mi ha detto di aspettare mamma per fare, non vuole mangiare presto, ha detto, capito? Poi dobbiamo pranzare alle 8 di sera, ma quando vai? Sorpresa, sorrisi, anche la cena poi, anche la cini a mezzanotte. Oh, secondo me questo è si sballano tutto, ci sono degli orari per mangiare, per dormire e cose, se tu cara mangi tanto, ma noi neanche per quello che non prendi solo, perché non è ancora digerito tutto insieme di Marco. Ma ricordati che è tutto proporzionato già, cioè bene o male già lo sai, no? Dormo da molto tardi, quindi mi alzo più tardi, faccio le cose più tardi, colazione più tardi, è tutto proporzionato, dai. Io sono già sballato il mio, che va da tempo, È meglio dire tutto sproporzionato, non proporzionato. Ehi, c'ho la lingua felpata oggi, ho la lingua inceppata. Kappa, avanti giù. Ok già, vabbè, ormai lui è abituato a fare così e giustamente è anni che sta facendo così, per cui se ti trovi bene Marco, vai avanti così di questo passo non se ne parla più. Va benissimo. Comunque già, mi stai superando di un pochino il 920, eh? Comunque un segnale fortissimo di lusso veramente, la radio è più che bella con 3, 4, 5 L, vai! Grazie Giù, dopo tanti lavori che abbiamo fatto a questo microfono, cambiato filo, cambiato la capsula, perché spariva di modulazione, ed era la capsula che stava partendo, pensavamo che fosse il potenziometro, ho provato, ho smontato, pulito il potenziometro, niente da fare, lo faceva lo stesso. Cambiata la capsula, non l'ha più fatto. Ok, sì, beh certo, sicuramente è una capsula ceramica quella che hai messo, per cui no, ma già si sente pure la chiarezza della capsula ceramica, perché la capsula condensatore rimane un pochino più composta come modulazione, invece questa è proprio bella, scusante, di lusso. Ottimo lavoro Gianni, veramente. Allora Marco, tu ti stai preoccupando per l'orario, e fai finta che non sei in Italia, che sei magari all'estero dove c'è un fuso orario diverso, e cosa vuoi che ti dica, o Marco? Sì, infatti è così. Vabbè, sono distratto un attimino. Rimango in quell'esse, dai. Peccato per la propagazione e anche per la portante, vabbè. Giulio, dimmi così come ti sta arrivando. Guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Così è 9 più 18. Ma compare 9 e 21. Modulati, diciamo che ti arrivi quasi a 9 più 25. Vabbè, cioè va bene lo stesso, dai. Sì, va bene, ragazzi, sta grande, altro che sta grande veramente. No, ma hai fatto un bel abbinamento, hai fatto Gianni, hai fatto bene comunque ad abbassare un po' la potenza di quel baracchino e per poi poter utilizzare 747. Sì, hai fatto benissimo, l'hai regolata in maniera perfetta, perché la radio esce splendidamente e non si sente nemmeno che c'è l'aggancio, non si sente proprio per niente, se non fosse per il segnale che aumenta, ma in quanto a modulazione è perfetta. Eia, Marco, a te come sta arrivando? Al solito già, mi pare il segnale da Lissio, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, 9 più 20. Con invece 9 più 25. Caffa. Va bene. Sì, vabbè, comunque si potrebbero fare anche così VDX tranquillamente, senza attaccare nulla. Sicuramente, certo. Ma non hai sentito Franco, con l'antenna autocostruita attaccata al filo da stendere, alla staffa dove si stende i panni, che arrivava fortissimo anche lui fuori, e ha fatto anche lui, inizialmente tu non c'eri, però c'era anche Franco, c'era, non Franco di Sorso, Franco Binario diciamo, dai. L'ho sentito quando ha salutato, perché stava andando al Ghero, ho sentito mentre stava salutando. Sì, e lui arrivava benissimo lo stesso, no? Ha fatto diversi collegamenti anche lui, problemi non ce ne sono. Quando c'è la propagazione che aiuta è una meraviglia, eh? È una meraviglia, anzi oggi è la migliore di ieri, perché ieri c'era tanto di quel rumore che non finiva mai. Ieri io ho modulato per un paio d'ore circa, ripeto, dai canali, sono partito dai canali da M, così andando e salendo, sono finito a 27 e oltre 650, però poi quando ho incominciato a prendere il canale l'R13, quindi puoi arrivare anche a oltre 10 watt, è così o Gianni? Ho capito, sì, ma non è quello il problema. Già non è più bevuto, mi sono concesso dei vizi e strabizi. Ok Marco, sì. No, io ieri, proprio ieri, mia moglie ha fatto una bella zuppa di pesce, ha fatto, e col brodo ha fatto anche la pasta, il brodo praticamente, a me piace moltissimo, anzi devo dire che il brodo fatto col brodo di pesce mi piace più del brodo di carne. io ci vado matto veramente per quella, per quel tipo di zuppa. La zuppa era perfetta, proprio tutti tutti i pesci. E di tu non sei uscito per niente del radio, infatti stavo parlando con Marco, io ci sentivamo sotto, ma comunque ci sentivamo. Avanti Marco, così. Marco, c'è di nuovo quella portata, ma forse è Gianni che non esce del radio, forse è Gianni che non esce del radio. C'è una cosa allucinante. Ma succede, sarà il difetto che gli faceva prima al microfono, ma non credo che qualche portantista, ma non credo, perché se no Gianni avrebbe ripreso, dovrebbe essere... Gianni, non sei uscito in radio, Sei di tu non sei uscito in radio, perché c'era una portante col tuo stesso segnale. C'è solo il bip, Gianni, c'è solo il bip. Non c'è la radio. Adesso c'è il cambio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cambia. Vabbè, dai, facci sognare, vai. Stavo cambiando l'apparecchio e ho capito una cosa, che si è avvito tutto lo spinotto del microfono, non mi fa uscire di radio. Se lo smollo invece esco, boh, non capisco da cosa possa dipendere. Evidentemente se lo avviti in fondo, può darsi che magari come spinge stacca la trasmissione, perché la portante c'era, però ti stacca la trasmissione. E adesso lo sai, appunto, e non lo avviti più in fondo. Ma batta su sta, pensavo che non funzionava più l'apparecchio. No, e a voi già se funziona, dato che... Vai Marco! E staccasse la portante. Ma te lo fa come? Avvitandolo in fondo o avvitandolo poco in fondo? Allora, se tu lo avviti a morte, non esce di radio. Se invece lo lascio così, esce benissimo, capito? Non so da cosa possa dipendere. Ieri ho messo una vitina nuova, perché avevo preso quella vitina piccola, e ne ho messo un'altra. Adesso non vorrei che toccasse quella lì, ma non penso, perché non implica il fatto che tocchi la vite, non c'entra nulla. Ehi, no, io ho detto, ma metto la portante attaccata lineare, ho detto, a conti siamo. Dai, io vi lascio, inizio a, siamo qua veramente, ci fa, tra portare a ebollizione l'acqua, passa tempo, dai, quindi mi metto a lotta. Dai, buon proseguimento di serata e ad a voi, forse, ciao. Buon appetito. E buona bevuta, buon appetito e buona bevuta, Marco. E vabbè, dai, già. Praticamente siamo rimasti soli, dai. Sono cominciato ad essere un po' stanchino di stare attaccato alla radio. Io ero al computer, a un certo momento è successo così. Ho ricevuto un vocale da Marino, ho ricevuto intorno alle 4 o una cosa del genere, che mi ha mandato i saluti un certo Carlo da Puri, ed era una persona che io avevo già collegato, e mi ha detto guarda che sono sul canale 16, che c'è una ruota di tutte persone di Puri, che è uno di quelli che mi ha incaricato di salutarti, e così è stato. Allora sono salito su, ho acceso la radio, ed ecco che anch'io sono entrato in quel QSO, e poi non c'era solamente Carlo che avevo sentito, ma c'era anche Maldio, c'era e qualche altro anche che avevo già sentito, per cui mi ha fatto piacere. Poi è entrato anche Luna Rossa, dunque perché praticamente c'erano 4 persone che io avevo già sentito alcuni giorni fa, e anche prima, anche l'anno scorso, la preparazione dell'anno scorso. E mi ha fatto piacere di ascoltarli, sono entrato a salutare, tutto lì. E va bene già, poi è continuata tutta la paravana che abbiamo fatto con noi insieme. Cava gara, e con questo apparecchio come ti sta arrivando il radio, Giulio? Ultimamente bene anche questo, però mi piaceva più l'altro, mi sentiva più l'altro, più scudante la voce. Ma questo è ultimo sesso, anche questa è bellissima. No, ma dico, di segnale è aumentato. Si segnale è sempre quello, Gianni. Sì, sul 9,20, sì, praticamente. Il 9,19, musulati, sorpassi anche il 20. Cavagava, capito. Andà bene. Adesso io con questo sto scendo con 20 infatti, modulati, se no se lo dici normali. Ma è ok, no, ma va benissimo, a voi se va bene, alla grande, alla grande. Va bene, dai, sono contento, che stasera abbiamo fatto dei miei collegamenti, e poi è arrivato il solito disturbatore, ma tutto sommato non ci ha dato fastidio più di tanto, però da fastidio se solo sapere che uno magari fa queste cose. Comunque, non provo le faccia, quello che mi dica già, devo dire, sono contento soprattutto per i segnali che hanno dato, eravamo tutti uguali. Anzi, io pensavo una cosa, avevo pensato, ma adesso è arrivato Roberto e sicuramente Roberto sarà ancora più forte, invece niente affatto, il segnale a Roberto era né più né meno come il nostro, Gianni. Marco, Gianni al telefono. A telefono chi sta? Sto provando a metterlo dall'altra parte, se è questione di spinotto voglio vedere, capito? Aspetta. Ora, qua non me lo fa. Sì, ma spegni l'altro baracchino, perché ho sentito un leggerissimo innesco, forse c'era l'altro baracchino, non so qual è, o hai le cuffie, non lo so. No, c'era cassa a parte ed ero vicino mentre stavo facendo il lavoro e si faceva rientro di RF sicuramente. Allora in questo spinotto non lo fa. Evidentemente già, vabbè, tu adesso lo sai, lo avviti con meno profondità, lo avviti e dunque va bene, no, non c'è problema, figurati. Poi te ne accorgi quando tu moduli, senti, vedi lo switcher che ti oscilla e allora ti rendi conto che stai uscendo, per cui non c'è problema, Gianni. No, ma io c'ho la prerogativa che c'ha da due parti l'attacco per il microfono, capito? Quindi io l'ho messo dall'altra parte adesso e non lo fa, probabilmente qualche cavo che si è interrotto, qualche cosa, dovrei aprirlo, vederlo e farlo, adesso non ha giugato, e da questa parte non lo fa, capito? Ah, ho capito, sì, puoi mettere il microfono su due prese, per così dire, ho capito cosa intendi dire. Sì, vabbè, no, ma andiamo bene, dai, non è un problema, oi, sono un po' stanchino di parlare, vabbè, dai, quasi faccio un po' di riposo, una mezz'oretta di riposo già, perché sto incominciando a sentire un po' di stanchezza alla schiena, boh, non lo so, speriamo che non mi venga la mal di schiena come alle volte mi viene, per carità. E ti posso garantire che quando ho mal di schiena sono proprio un uomo proprio che non vago a niente, perché quando ho mal di schiena è tremendo, guarda, soprattutto quando mi inchino eccetera, vabbè, comunque speriamo che non mi succeda, speriamo che non sia quello, forse sono stanco e basta. Vabbè, giù, se non te la senti chiudi non c'è problema, dai. Io mi metterò a pulire la casa, dopo farlo io. Domani ho detto lo faccio, invece se stai chiudendo che non c'è nessuno, comincio oggi e poi continuo domani, boh. Non lo so, adesso vediamo, la devo pulire tutto da capo a piedi, come faccio ogni sabato, tutta la settimana do una lavatina così e poi il sabato la pulisco infino. Ok, già, sì, mi riposo un attimino, dai, mi riposo, adesso mi distendo qua un attimino e così vedo di recuperare un po' la schiena. Vabbè, già, mi dispiace lasciarti da solo, non so se c'è ancora Marco, ma suppongo di sì, casomai lo chiami se risponde, ma se penso di sì. Scusami, non mi trattengo, dai, oltre, mi voglio riposare una mezz'oretta, così per vedere se riesco ad eliminare la mal di schiena che ho in questo momento. Jacopo, ciao Gianni, grazie per la chiacchierata, ci sentiamo prossimamente, dai. Ciao, ciao, grazie ancora, ciao. Ehi, Aggi, non ti preoccupare, vai tranquillo, non c'è problema. Ciao, ciao, ci sentiamo. Quando fa così si c'è il filo metro rotto, tagliare tutto. Non è il filo rotto perché l'ho provato dall'altra parte e non l'ho fatto. Se, se io lo provo dall'altra parte dello spinotto, perché c'ha due attacchi, no? Attacchi, no? Lo provo solamente da una parte, lo provo dall'altra e non l'ho fatto. E allora lo spinotto del baracchino. La più sicura è però cala, mi gioco troppo. Di solito, ma so, io me ne sto andando via radio. Benissimo. Andare là. Cambio. L'hai vista quella classificatrice? Sì che l'ho vista. Quella è più professionale, cioè formata 5, c'è il doppio della 4. Cartaglierino, è ben nombrante, però è la mia, diciamo, è perfetta, però stanno dando quella, mi pare da lunedì la danno, vabbè. Cosa? La plastificatrice già, cioè tu c'hai una cosa stampata con la stampante che magari puoi conservare senza che si sciuppi, la metti dentro questo foglio sottilissimo di plastica, la metti nella plastificatrice, praticamente ti salda i lati, quindi anche se ci va acqua, caffè, tutto quello che vuoi è indistruttibile, diventa tutto. Sì, sì, la conosco che cos'è. Dove la stanno andando? Da lì? Lidl è la versione, quella più grande, fa fino al formato A3, quindi si fa il formato protocollo, no? dell'A4, no? Delle stampanti classiche, quindi i calendarietti, vabbè, però bisogna avere la stampante A4, comunque fa A3, A4, A5, tutto, biglietti da visita, tutto quanto, c'è anche stalino incorporato. Io ho preso quella più economica perché io faccio solo A4, cioè cosette stampate, tabelle di canali, band plan, mi sono classificato tutte quelle cose lì che tornano utili poi. Ma non l'hai visto sul catalogo anche la foto, 22, quant'era? 22,90 mi pare. Certo è un po' ingombrante, te lo dico già, ma se non è molto spazio, la mia era più piccolina, ti avevo mandato la foto, mi se guardi su, infatti io la volevo più pratica, poi io il taglierino non ne uso di quella roba lì, casomai me lo taglio io con la riga e col taglierino a mano, capito? Ma il catalogo ce l'hai? Adesso te lo mando già. Io voglio il catalogo. Ho il cataghele. Ho il cataleghe. Catalogo. Poi c'è il mom delle cose. Invece qui il boom. Il mom. E lo smith. Che ride. Oh, l'abbiamo fatto un milione l'altro giorno, c'era da crepare, Luca ti saresti pisciato alle risate. Che me l'hai raccontato? E lui, attenzione, attenzione, amico! Lui, a posti, cerca di fare sentire. Maledetto. E il Torino gli ha fatto spagnolo. Maledetti che si è. Cappa. Io guardo le lacrime, te ne ricordi la volta che siamo andati la Beautiful? Stavo ridendo così. Ma non si immagina. Torino ha detto, mi ermano se scucci Spagna, questo qua è tu. Attenzione Spagna. Ma si è agganciato già? No. Mi ha segnale che ci ha allucinato. E comunque ha iniziato i zappi. Così sono agganciato, guarda, 1, 2, 3, prova. Sì, ma qua posso abbassare, vai. Eia, qua arrivo iniziato i zappi. E che potevi fare? Potevi verniciarti anche gli altri, quelli che ti hanno dentro delle... E qui è un altro momento. Bene, sono usciti. Abbastanza. Cavagato. Diciamo che è rimasto un'ombra, non so, quando mettevo il microfono sul baracchino, no, MB2-4 ed erano rimasti segni dei piedini, dai. E beh, non potevo verificarlo. Sono conosciuto benissimo, ma come entrerà prima? Perché messo male un vero il typhoon? Messo male solo. Ma quello che è modificato, stai dicendo? No, a me così non mi piace. Io l'altro giorno, mentre stavo facendo il tiro, mi hai rotto l'alimentatore. Mi è caduto in terra, meno male non si è rovinato l'alimentatore, perché è quello da 50 ampere. Perfetto. E adesso qui e là faccio l'altro typhoon, quello modificato. Per i vernici? Sì. Ah, fatelo tu, non avevi bisogno di portare da Roberto. Io me li faccio io, me ne escono perfetti. Ma tu anche il fondo li dai? No, no. Se ci sono graffi li levigo. Li levigo appena appena con la carta abrasiva, con la fina fina. Sì, però quello del typhoon è martellata la vernice, capito? Cioè, non è liscia. Io per dire nel Galaxy, quando me l'hanno dato, era perfetto, c'era solo il segno, sicuramente bevevano il caffè, ce lo mettevano una tazzina sopra, e c'era il segno del caffè che ho provato a toglierlo, ci ho messo sgrassatore, tutto quanto, non riuscia. Ah, l'ho levigato appena appena e l'ho tutto riverniciato completamente, è uscito un bombo. Quale? Che baracchino? Il Galaxy. Ah, Saturnetto. E io. Ho capito. Beh. Casino, eh. Infatti mi sa che faccio anche quelli del 3009. Si vedono un bel quelli, E allora, ma cosa ci vuole a farli? Ma se sono graffiati scavati, allora. Li devi dare per forza il fondo per coprire. Ti dai il fondo o lo stucchi, e te lo levi. Però se non sono scavati ce la fai a coprirli bene. A me da dire che dappi della giubilea di Eumi. Ma quali sono? Quelli di dare a me già? Vabbè dai, più di così non poteva fare. Una struttatina sono usciti. Ma come entrare per come erano prima? Sono abbastanza nuovi, là. Ho detto le tappe, sono venuto io a prenderli. Lo so, ho capito. Vabbè, ciao. Ma state parlando delle tappe che già ne deve dare a me? Perché cosa stai bombardando molto in questo periodo? Oddio. Perché? Hai detto che vuoi tappi. Non hai capito. No, dai, quelli non li do che mi possono servire anche a me. Ah, quello ti serve a te li compri, che a me mi servono subito, ok? Che se li ordino ci mette tempo a arrivare. Dipende da quanto mi offri. Quanti euro? Nuovi costano 15 euro. Tutti e due 15 euro. Se nuovi costano 15 euro, dai, lì. E l'uno, Baro. Ah, cosa l'uno? Dammi uno, allora. Te ne do uno. Cara, è morto. Vabbè, tu fai una proposta. Sei venuto tu stamattina, no? Ti ho aspettato. No, ti ho detto che... No, aspetta un attimino, non ti ho detto sabato mattina. Certo, vedo sabato, poi sono dovuto scendere da Valter a fare un lavoro e sto salendo alle 3:30, 4 senza mangiare pure, figurati. Cava, va bene, io sono sdraiato, sono sdraiato adesso. Quando vuoi. Guarda, non ti prometto niente, ma nel caso domani mattina, è solo in tarda mattinata, perché io devo aspettare uno da Cagliari che deve venire qua. Quindi non so che arriverà, ma che partiva partito per meglio, no? Va bene. No problem, avanti Luca. Lugariello. Oh ragazzi, dai, mi allontano dalla radio, bene. Vado a fare una luce rilassante. Lì ci sentiamo più tardi, Ciao, divertitevela. Ci siamo divertiti prima, Tino, già sentite, ci siamo divertiti prima che c'è la propagazione bella. Adesso è andata di Luca. Tino, mi ascolti? Certo che ti ascolto. Bene o male, basso? No, Santiago quasi 9. La radio va bene, sì, microfono normale. Qua vicino sì, dai a me. Positivo, dai. Ah, va bene, a voglia. Ah, mezzugare, pure tu stai arrivando fortissimo. Ma no, anche Claudio, prima arrivava basso, si arrivava bene, no, immagino 9:20 qua. Chi Claudio? Claudio Alto. Ah, lo pensavo di Muros. Perché Pino l'ha equipaggiato e quindi adesso arriva Mino. Adesso ti mando due foto, ti mando Gianni. Manda. Aspetta, però devo cercare. Vannino mi ha chiamato, non me ne sono accorto, ho il telefono in tasca. Positivo Cavarroggi, frate, che bella. Ma insomma, stasera non vuole entrare nessuno, sono le 7:15, non ha di gana di entrare. Non devi fare niente stasera già. No. Le 7 sono 15, per forza non entra nessuno. Oh, se voglio prendo la macchina me ne vado a fare un giro a Plattamona, ma non a giocare. Mica 7 sono 15 già, nemmeno 7 sono 10. Perché c'è la propagazione qua prima Claudio. E siamo venuti qua, poi siamo rimasti qua. Dai, andiamo su 10. Oh, un attimino, dai, guardate una sciacquata, se no poi si occupa il bagno, un casino. Ci sentiamo fra un po', dai, se ci siete. Passate al 10 già. Gianni, guarda, per